Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci amici ad un altro appuntamento anche questa settimana con l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ben trovato. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, parliamo di un caso che vi è toccato, che state seguendo, quello di una persona, un veneziano credo, che è restato con la fibra ottica che andava e non andava, no? Aveva fatto un contratto, la fibra ottica però non gli funzionava granché, e lui comunque le bollette le ha pagate e non aveva il servizio. Quindi da lì cosa è successo? Allora, innanzitutto, Francesco, voglio anticiparti che trattiamo di un caso di una persona che ha avuto un problema con un operatore di telefonia fissa, in questo caso se parliamo di fibra ottica per forza dobbiamo parlare di Telecom, che si è concluso bene per il disservizio che ha avuto, ma di cui noi contestiamo quelli che sono stati gli importi di risarcimento che la compagnia fornitrice del servizio ha riconosciuto all'utente o al nostro socio dell'Adico. E in questo caso è capitato proprio di una persona che si è trovata ad accedere a un'offerta di fibra ottica tutto incluso, e questa persona dopo essere rimasta senza internet per qualche giorno e riuscire successivamente ad attivare il servizio, si è trovato nei giorni successivi senza linea telefonica per un mese. E a tutto questo siamo arrivati alla vicenda incredibile di cui un bel giorno la Telecom gli ha riconosciuto 10 euro di disagio. 10 euro di disagio, compreso però le spese della bolletta, tutto quanto, cioè tu fai un abbonamento, quindi lo devi pagare, e però non lo puoi sfruttare a dovere, quindi era ben diversa la cifra che la Telecom avrebbe dovuto restituire. Ma certamente per noi la cifra è completamente diversa rispetto a quella che è stata offerta, tant'è vero che noi abbiamo subito impugnato quello che è stato il riconoscimento dei disagi, l'abbiamo contestato intimando alla Telecom un risarcimento di 150 euro. In questo caso parliamo di un importo completamente diverso, perché non si può calcolare il disagio solamente su quelli che sono stati su quello che è l'importo del costo di internet su un canone mensile e fare una proporzione dei giorni, ma bisogna anche considerare quelli che sono i disagi che la persona ha avuto in questo mese e il modo con cui questa persona ha dovuto sopperire i disagi che la compagnia gli ha recato. E per cui abbiamo ritenuto 10 euro un'elemosina a fronte di quelli che sono i costi che la persona ha dovuto sostenere. Abbiamo richiesto 150 euro più 50 euro di spese legali, quindi un indennizzo di 200 euro, che riteniamo una cifra più che equa e completamente diversa rispetto a quello che in questo caso la Telecom ha voluto riconoscere al suo utente. Sì, allora Carlo, adesso cosa succederà? Si aspetta di vedere qual è la risposta di Telecom? Beh, ricordiamo che innanzitutto, al di là di quello che succederà, e il nostro augurio è che tutto si concluderà bene come accade sempre ai nostri utenti quando si iscrivono, è quello che certamente noi con una diffida legale intimeremo una revisione di quella che è stata la pratica e un indennizzo diverso di quello che è stato riconosciuto. O questo viene dato con le buone, oppure costringeremo a riconoscerselo con altri metodi. In prima battuta ricordiamo agli ascoltatori dice sempre il Corecom, che è un ente di conciliazione gratuita che gestisce le controversie tra utente e gestori di telefonia fissa e mobile possono insorgere, altrimenti poi esistono i sistemi di giustizia ordinaria, quale giudice di pace, e quale non esiteremo a contattare qualora che questa vicenda non si concluda come ci auguriamo. Ecco, quindi mai disperare se vi trovate inguaiati in una situazione del genere, avete fatto un contratto e le cose non funzionano a dovere come dovrebbero, ma comunque voi pagate un tot al mese per un servizio che in quel caso non avete ottenuto, insomma c'è la possibilità di scendere a patti e di farsi rimborsare anche qualcosa, magari usufruendo dell'intelligenza e delle conoscenze che l'Adico ha. Quindi ricordo Associazione Difesa consumatori.it, che è il vostro sito, e poi ci sono i vari sportelli che sono adibiti ai vari problemi, e sono molti, ahimè, in cui i consumatori solitamente incappano. Sì, come hai detto tu Francesco, il socio fortunatamente non ha esitato a contattarci, questa volta siamo contenti che la vicenda sia conclusa, però ho voluto affrontare questa cosa proprio perché riteniamo che anche lo stile deve essere una prerogativa per concludere bene le situazioni, per cui riteniamo che problemi di telefonia come di tanti altri generi che trattiamo ogni settimana sono molteplici ed è giusto che insomma quando insorgono queste controversie ognuno gli venga riconosciuto quello che sia, riteniamo, equo rispetto a quelle che a volte potrebbero essere delle elemosine che hanno più da senso di provocazione che non di riconoscimento del disagio che a volte l'utente è costretto a subire. Certo, allora grazie all'Adico, l'appuntamento con te Carlo è rinnovato fra un paio di giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.